Allora, torniamo in diretta passando direttamente dalla diretta di Radio Spore, la radio di XM24, a un collegamento all'interno del centro sociale, anzi sarebbe meglio dire sopra il centro sociale. Siamo collegati con il tetto e con noi c'è un attivista che saluto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e tutte. Allora, ovviamente tanto buono questo giorno non è, però voi vi trovate in questo momento sul tetto. Raccontaci un po' come stanno andando le cose. Guarda, sì, intanto scusate per la voce un po' strozzata, sono davvero momenti difficili, è anche difficile a parole provare a raccontare quello che vedono gli occhi in questo momento. Sostanzialmente gli operai hanno sfondato il muro di cinta esterno a XM24 con una ruspa. Ci sono circa 3 aziende di muratori, insomma, che stanno sfondando l'ingresso di XM24. Sono ormai entrati e da qualche minuto si stanno dedicando alla più becera devastazione dei locali praticamente più importanti, quindi stanno portando via tutto il materiale che avevamo lasciato all'interno con l'aiuto di ditte specializzate in traslochi, e nel frattempo con ruspe e martelli pneumatici stanno devastando le cucine, i bagni e si stanno dedicando anche allo sfondamento di 2 barricate, nel senso che i 2 cancelli d'ingresso XM24 erano stati bloccati e rinforzati per entrare, hanno direttamente sfondato con una ruspa il muro di cinta e una volta dentro, cioè in questo momento, si stanno dedicando appunto alla devastazione più becera delle strutture più importanti dell'ex mercato, ecco. Certo, ecco, voi sul tetto più o meno in quanti siete? Siamo tanti, siamo carichi, siamo circa una quindicina, e ci sono altri compagni ed altre compagne che stanno resistendo all'interno dell'ex mercato nelle forme più diverse. Sì, abbiamo raccontato, diciamo, le forme più creative, i tessuti aerei, la piscina, esatto, mentre fuori, questo forse non lo so se lo sapete perché siete lì, ma fuori nel presidio che sta aumentando ci sono anche lì forme di resistenza creativa, di solidarietà creativa con lo yoga, il saluto al sole, insomma queste cose qui. Li vediamo i nostri fratelli, le nostre sorelle e ci fa, cioè è la cosa che ci dà forza. Perché resistere a questo scempio è cosa davvero difficile, e senza l'energia positiva che viene da fuori e da tutti i compagni, da tutte le compagne qua dentro, non riusciremo ad affrontare questo momento. È davvero uno spettacolo impietoso. Certo, ecco, sul canale Telegram, allora io ricordo anche che appunto XM24 sta facendo dirette in ogni modo, diciamo, prima abbiamo ascoltato Radio Spore, ma c'è anche un canale Telegram che ci dicono in questo momento che la polizia, l'amministrazione sta negando la possibilità all'avvocato di entrare e seguire le operazioni, usano come scusa il fatto che si tratterebbe di un'ordinanza amministrativa, mentre appunto il presidio chiede a gran voce che l'avvocato possa entrare subito. Ti chiedo se vuoi commentare. Non sapevamo qua sul tetto questa informazione. Speriamo che tutto vada bene, per quanto bene possa essere una parola sì, quasi inappropriata in questo momento. Il nostro commento adesso è freddo, questa informazione ce l'hai data tu, noi non la sapevamo. Penso che appunto sia emblematico di quanto sta succedendo in questo momento, di questa scelta che ha fatto l'amministrazione, che evidentemente non ha voluto semplicemente cacciarci da qua, ma dare un messaggio di un certo tipo. Tutte queste cose, appunto la devastazione dei locali, la mancanza del rispetto di queste norme, appunto come nel caso dell'avvocato che non viene fatto entrare, sono a mio avviso emblematico dello schifo che sta compiendo questa amministrazione. Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, insomma, hai detto che il morale è alto anche lì sul tetto, fa caldo già? sì, fa caldo, ma il sole bacia i belli, e visto che appunto gli eroi sono tutti giovani e belli, un po' di sole non fa altro che darci più energia, darci una bella tintarella, almeno... rendiamo utile tutto questo sforzo. Certo, beh, insomma, quindi ne uscirete sicuramente abbronzati. Grazie mille intanto. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte quelle che stanno portando solidarietà in questo momento alla nostra lotta. Certo, buona resistenza ai compagni e alle compagne di XM.